Almost Blue è un radiodramma scritto da David Santoro, realizzato da Alex Mendizabal. Questa qui è la versione in italiano. Esiste anche una versione in lingua basca. Presentazione dei personaggi. Io sono lo spirito della festa. Io sono Xavi, il padrone di casa. Io sono Lars. Io sono Xenia. Con Lars ci siamo lasciati da un po'. Io sono Maria, la padrona di casa. Io sono Anna, invitata alla festa. Anch'io sono invitato alla festa e mi chiamo Carol. Noi pure siamo invitati alla festa e io sono Lara. Io Tom. E io sono Max. Venite, entrate pure. Sono lo spirito della festa. Non manco mai in queste occasioni. Qui finisco sempre per conoscere tutti, anche voi, uno per uno. Ci sono sempre nuovi arrivati, nuovi amori, nuovi amici, vicini invadenti. A me basta uno sguardo per inquadrarli e infondere in loro me stessa. Sono tanti, giovani e meno giovani. Tre di loro non sanno che moriranno entro i prossimi 10 anni. 6 coppie si separeranno. 5 persone cambieranno paese. Qualcuna diventerà madre stasera e qualcuno eviterà di diventare padre. Alcuni continueranno a sognare e saranno sempre affamati. Altri sono già stanchi. Ma non pensiamoci adesso, io sono qui per voi. Stasera sono la vostra isola, il vostro angelo custode. Siamo nel pieno della festa. Tuffatevi con me. Ora. Ehi, ciao. Scusa, ho fatto un po' tardi. L'importante è che sei arrivato anche tu. Dai tutto a me e fatti un giro. Ecco, vieni Lars, bravo. Andiamo da quella bella ragazza distesa sul divano. Non è facile parlarci, ma è la mia preferita. E vorrei che si animasse un po' stasera. Ciao Xenia, non sapevo che fossi qui anche tu. È passato un po' di tempo. Il tempo non è mai abbastanza. E col tempo flirtare con questo disastro è diventato parte di me. Brindiamo a questo incontro, eh? Oh sì, Lars. Come mai da solo? Non c'è... No. Beh, tutto sommato, meglio così. Cioè, no, scusa, no. Io... Sì, è ovvio. Volevo dire... Accidenti, succedono tutte a me. Se do una festa, protestano i vicini. Da piccola ho avuto il morbillo e gli orecchioni. Nella vita ho preso solo raffreddori e perso tutti i treni. Dai, era solo un bicchiere, ne avranno altri, no? Mm? Non riesco a ingannare questa testa che pensa al posto mio. Beh, vai. Beh, a quanto pare vi conoscevate già. Buona fortuna, Lars e Xenia. Io devo continuare il mio giro. Ah, ecco quegli altri due. Non staranno mica litigando di nuovo. Senti, volevo chiederti, c'è quel convegno a Chicago? Sì. Chiaramente non posso andarci perché non mi rimborsano il viaggio, ma ci va un professore che conosco, ha citato i miei lavori su quell'argomento. Ma io ancora non li ho pubblicati. Ah. Ma pensi che sia possibile che al convegno presenti i miei materiali come suoi? Possibile, possibile. Come sarebbe? Mica si può fare così. Beh, è un classico. Ma cosa ne sai tu? Sei tu che me l'hai chiesto. Un classico, ma vattene. Insopportabili. Perdo il mio tempo con quelli come loro. Facciamo un salto in cucina. E vediamo come se la cava la padrona di casa. Ecco Maria che si dà da fare con l'ospite giapponese. I am the cloud, an underworld, an underglue. E tu da dove vieni? Da Osaka. Ma parli la nostra lingua? Solo poco, sumimasen. E come ti chiami? Yuto. Yuto, che ti preparo da bere? Ti va un martini? Sì. O un gin tonic? Sì. O un succo di frutta? Sì. Che Che cavolo, ma dite sempre di sì nel vostro paese? Sì. Bene, bene. Vediamo un po' di qua. Ah, tutto a gonfie vele. La sala balla. Mezzanotte suonata da un pezzo e siamo appena agli inizi, in pieno vortice. Tutti si incontrano, si sciolgono, ma Xenia è ancora lì sul divano con Lars. È un pezzo che quei due si parlano. Diamogli un attimo di respiro. Maria. Maria, tu sei la padrona di casa. Sai, Lars non ha ancora avuto niente da bere. Lars, bevi qualcosa? Tu sei per la vodka, se non ricordo male. Tieni. Guarda che c'è ancora qualcosa da mangiare in giro, se ti sbrighi. Sì, grazie. Non preoccuparti. Per mangiare aspetto a mio rischio e pericolo. Dicevo, ma forse la tua immaginazione. L'immaginazione è quella che fa pensare un'ape al miele. Ah, ok, ok. È strana veramente. Sì, ti fa andare avanti, vuoi o non vuoi, ugualmente. Oggi è un giorno giallo, eh? Giallo, come il venerdì in cui ci siamo conosciuti, in primavera. Ti ricordi bene il gioco? Di che colore sarebbe la sera? Rosso ciliegia. Rosso ciliegia. Ma era quella sera, Lars. Anche i colori cambiano. Accidenti. Di solito riesco a trascinare tutti, ma con loro due oggi non c'è niente da fare. Hanno proprio il blues. E invece Xavi bisogna sempre tenerlo a freno. Eccolo che viene e mi afferra. Ai, piano Xavi, mi tira i capelli. Sto già facendo il mio lavoro, uffa. Ehi Max, tutto bene? Stavate litigando di nuovo tu e Anna, eh? Ah, Xavi, così, generoso. Io amo tutto questo, tutto. Sì, direi tutto bene. Ai, ecco Anna che non si morde mai la lingua. Adesso tocca a Lara sopportarla. Fammi infilare in cucina mentre è di spalle e non mi vede. Tu sei una di quelle che pensano una roba del genere. Io. Quale roba? Questa. E cosa ho detto? E cosa ho fatto che te lo fa pensare? Adesso esattamente non ti so dire. Cosa ho detto? Quando l'ho detto? Non me lo ricordo. Ma non sono mica la sola a credere che la pensi così. Ah no? E chi altro lo crede? Non lo so. Ma qualcuno di sicuro lo crede. Cristo! Lara, dai, vieni a ballare. Senti cosa hanno messo. Sì, è meglio. Meno male che sei venuto a prendermi, Karel. Se non c'eri tu la sbranavo quella. Sbraname, non faccio resistenza. E allora, che gusto c'è? Il tempo corre. La birra scorre, sono già le 2 del mattino e qui non si regge più in piedi quasi nessuno. Eppure non mollano. E neanche Lars e Xenia. Sono sempre lì. Ora si tengono per mano. Ma per loro stasera io sono solo il loro blues. Com'è stato possibile, Lars? Non avrei mai pensato che potesse finire. Neanche io, ma credevo che tu non volessi. Ma certo che volevo. Perché non hai insistito? Vedi che nonostante tutto non siamo riusciti a capirci. Eri nella mia testa giorno e notte. Esistevo solo per te. Mi aspettavo l'amore fin dal primo bacio che ci siamo dati. Forse credevo a tutto. Ma non dare la colpa al mio cuore per questo. Dallo al fatto che ero giovane. Che colore aveva il nostro bacio? Arancio. Arancio intenso. Sembra che non posso fare niente per loro. Solo loro possono risolvere questa situazione. Occupiamoci un po' degli altri. Guarda lì, Xavi, imbambolato alla finestra. Mi sembra proprio partito. Fuori dalla finestra è tutto bianco. Vista sul Polo Nord, neve dappertutto. A perdita d'occhio. Cadi neve. Neve non fa rumore quando cade. E chi è che grida lì? Oddio! Due foche sulla banchisa che vengono verso di me. Xavi, Karel è caduto! Xavi! Ragazzi! Ecco lì l'orso Karel. Karel! Abbattuto Oddio! Da un colpo di fiocina. Ehi, cazzo! Xavi, fa qualcosa. Se no la festa va a puttane. Siamo matti. Lara, Anna, che succede? Accidenti, ma è Karel. Un professionista. Nessuno cade come cade lui. Guarda qui. Ha fracassato un tavolino, una lampada e una bottiglia. Vuota per fortuna. Ma fa qualcosa. Guarda come sanguina. Cristo. Sanguina proprio. Dal polso sinistro. Aspetta. Gli mettiamo la benda col ghiaccio. Tutto bene, Karel? È ok, Xavi, ok. Il sangue è bello, il sangue è vita. Ne abbiamo 12 litri. Anche se ne perdo uno non è niente. 12, Xavi. Oddio, Xavi. Oddio! Oddio, Xavi. Oddio, Xavi. Ho capito. Andiamo al pronto soccorso. No, non serve. Sono solo due gocce. Sei sergente, Karel? Sì, signore. Ecco, tieni il braccio alzato, sergente. Che sanguina meno. Si va al pronto soccorso. Marsh! Sì, signore. Maria, per favore, pensaci tu qui. Portiamo Karel a rottamare e torniamo qui di volata. Fammi trovare un po' di birra, un po' di musica, ti prego. A dopo. Ragazzi, a tra poco. La festa continua. Sì, riprendiamo il filo. Forza, con questa musica. Balliamo, balliamo. Accidenti. Quello scemo di Karel doveva farsi male proprio adesso che volevo ballare un po' anche io con Xavi. Speriamo che non sia niente di grave e che tornino presto. E adesso arriva anche Anna. Non la posso soffrire, ma cerchiamo di non farci rovinare la serata. Oh, Maria! Finalmente ti vedo un attimo tranquilla. Sai com'è con gli onori di casa? Tu, tutto ok? Fantastico, c'è un'atmosfera bellissima. L'hai letto l'ultimo libro di... No, neanche il primo. Lo sto finendo adesso. Poi se vuoi te lo passo. Sai, a questa visione dell'io cosmico, della ciclicità, dell'armonia della vita che si trasforma in eterno. In fondo poi Dio è questo. Non so come si fa a vivere senza questa certezza. Come certezza? Dio non è certezza. Dici così perché sei ancora chiusa nel tuo piccolo io. Ora la strozzo. Scusa, ma l'io cosmico, Dio, chiamalo come ti pare, è tutto, giusto? Certo. E non c'è niente che non possa essere. Certo che no. Allora, se è tutto, deve essere anche niente. E come fa una cosa ad essere in contraddizione con se stessa? Tutto e niente? Ma se è Dio. Appunto. Lo vedi che Dio è contraddizione? Altro che certezza. La certezza è il contrario, è il demonio. Il tuo caro Dio è ambiguo. E infatti era il Logos, il Verbo, eccetera, eccetera. Ma figurati, e che c'entra il Verbo? Il Logos. Come che c'entra? La cosa più ambigua e quindi più divina che esiste è il linguaggio. In inglese, tanto per dirne una, La parola apparent significa sia apparente, cioè in realtà falso, sia evidente, cioè di una verità lampante. Boh, io non parlo inglese. Beati gli inglesi. Che nervi. Anna riesce a litigare con chiunque e poi tocca a me rimettere insieme Cocci. Meno male che Maria ha sangue freddo. Ma una festa dovrebbe servire anche a dimenticare le fratture, lenire le separazioni. È difficile lasciare tutto fuori della porta, ma è così che si dovrebbe fare. Via tutto, per un po', ed entrare in uno spazio di leggerezza o di intensità. E qui sul divano ce n'è anche troppa. Xenia, avrei voluto farti innamorare di me, possederti questa sera, ma c'è già lui. E tu, Lars, a che punto sei? Sono ore che le stai accanto. Forse ti sei perduto. Allora seguila se hai coraggio. Come si fa a tornare indietro, Xenia, quando ci sono di mezzo altre persone? Più passa il tempo e più è difficile. Beh, se tu così sei felice. Felice? Non sarà certo com'era tra noi. Non potrà mai esserlo. Ritrovare quello slancio non è possibile. Ma forse nemmeno tra noi. Scusa. Una lacrima. Una sola, giuro. La lacrima era verde. Sì. La lacrima era verde. Il venerdì era giallo, la sera rossa, la lacrima verde. E come sarebbe ora il tuo cuore, Xenia? E ora penso anche di avere il cuore un po' blu. Sì, credo. Quasi blu. Bendena di righerta tu. Festa antola tu. Almost Blue, radiodramma prodotto dall'Associazione Culturale Euskara e dal Dipartimento di Lingua e Cultura Basca dell'Università Popolare di Roma, UPTER, in collaborazione con Cinema de Tour. Attori partecipanti al corso radiodramma in lingua basca. Spirito della festa, Paola Rosa. Xenia, Viviana Tomassetti. Lars, Marco Bello. Xavi e Max, Ugo Piergiovanni. Anna, Federica Aliano. Maria, Rita Iacomino. Lara, Cristina Nisticò. Yuto e Karel, David Santoro. Musiche scelte composte dai partecipanti al corso Radiodramma. Alcune musiche originali di Marco Bello. Sigla canzone fatta da Alex Mendizabal e dai partecipanti al corso con micro pezzettini di Chet Baker. Altre musiche di Enzo Avitabile, Lee Scratch Perry, Kasbach Rockers, Big Fog, Antonio Rivas, Ozzo Matli, Kruder and Dorfmeister, Bernd Friedman, Oki, Los Fabulosos Cadillac, Kanda Bongoman. Mixato da Marcello Liberato. www.euskara.it. Gaueta egun. Amodio desira. Gure lehenengo musu. Gure lehenengo musu. Ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia. Ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, onda mendi au, nire birtu. Onda mendi au, zure gatik eta zuretzat izan. Zure gatik eta zuretzat izan. Tendena sinistu agian, bihotzak errurik ez zian. Gaztaroak ziu, ziu, ia, ilun, ia, ia, ia, ilun, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ilun, ia, ilun, ia, ia, ilun. Yeah.